Natalino. Natalino un po' assente sti giorni. Boh. Impegnato con la pesca deve essere. Eia, ma perché vanno presto a pescare? Ora c'è che vado anche con la luce a preparare tutto, no, sai? Preparare con la luce è sempre meglio che essere già al buio. Beh, si conferma, sicuramente è così come stai dicendo tu. Sciò che roba di battenza alta radio. Che bella che veramente, mamma mia quanto è bella. A volte fai pazzie a continuare a modulare con gli HF quando hai delle radio stupende veramente da poter usare. Veramente, complimenti al padrone. Ok, va bene mio Marco, dai, se devi cenare va bene, io rimango qua in QRX, se entra qualcuno rispondo, se no ve la prendete in gomma le vostre mani. Eia, beh, però devo pranzare, e quella è la cosa strana, capito? Eia, c'è qualche... Mi chissà che sia la volta buona, mi. C'è qualche radiatore qua e là, da, stavo ascoltando lì, ma cazzo di meglio. Veglia, ia, è una bella radio quella lì. Complimenti al padrone, quindi ti autolodi, così è. Beh certo. Molto bene, ma ti dico una cosa sinceramente, con tutto rispetto per chi ha il Magnum, perché anche il Magnum è una bellissima radio, ma sia la prima serie che la seconda serie a questo GTL 200, questa versione qua al Magnum, non le corica neanche il pelo, neanche come ricezione, come trasmissione c'ha il doppio della potenza. Sto andando con... 120 watt modulati, fatti rugonto. Eia. Eia, eia. Ascolta, ti volevo chiedere, Claudio, tu l'assicurazione dove l'hai fatta? Lo scooter, quello che è? Perché vorrei valutare tutti, almeno le grosse assicurazioni, fare un preventivo per lo scooter. Tu con chi sei? Io c'ho tutto con la Vittoria Assicurazioni, Marco, te l'ho già detto, via Dominzoni, c'ho due macchine e due moto, e sono molto competitivi, però chiedi alla Liguria Assicurazioni, che è competitiva lo stesso, qua a Sassari, se no il computer lo sai ad operare, fatela online e non sbagli. Ah, si può fare anche online, ma guarda, non ci ho badato. Poi certe chiedono più dati, certe meno dati, addirittura la Unipol hanno avuto a sapere tutto, vita, morte, miracoli, mie e della moto, e mi avevano sparato 650 euro, una cosa folle, alla Unipol sono matti, perciò c'hanno una sede che sembra una banca e non un'assicurazione, proprio una banca. Capito, la Unipol lì dietro Pomponio, lì dietro Ivan, mi sono scese le braccia proprio. Ma lì c'è anche la banca Unipol, c'era il mio collega conto correntista lì proprio via Vannabasso, si è andato proprio la chiesa più cara di tutti. Prova la Liguria Assicurazioni, oppure prova la Vittoria, oppure chiedi dei preventivi online, capito? Vai su Subito, cerchi le assicurazioni online e non sbagli, secondo me poi vedi tu. Buonasera. Ciao Giulio, buonasera. Ciao qua. Di Marbone, sì, non ti preoccupare. Vediamo, tanto non abbiamo perso niente lui. Ciao Marco, buona assicurazione, non si paga poco. Lì vicino a casa tua, alla Cattolica, via con la Duscia, vai lì e vedrai che ti fanno le prese straordinarie. Guarda, dunque la prima volta che ho assicurato la moto ero con la Cattolica, però me ne sono andato perché per quel tipo di moto, quel tipo di scooter, non facevano dilazionato di 6 mesi, dovevi pagare un'unica rata annuale. E ho detto no, mi pesa troppo pagare 300 e tanti alla volta, no? Non so se fosse 350, 380, mi pesava troppo. E ho detto se potevo dilazionare, dice no, noi non dilazioniamo, cioè facciamo per quel tipo di... E ho detto vabbè, allora arrivederci, e non ci sono andato più, era andato da un altro. Vabbè, non è importante, non è... però devo cominciare a farmi un'idea dei prezzi, quindi se sia online mi faccio un preventivo online, me ne giro il più possibile, ok? Ah Giulio, il video l'avevi visto, la veduta dal terrazzo, sì? Sì, sì, l'avevo visto, bello, bello, un bel video. E il regista che era bravo, capito? Per quello, la camera mi ha aspettato. Sì, vabbè, quello sì, d'accordo, ma guarda, io ho fatto per la Ponte Fiesta questa della settimana scorsa, 321 tutto l'anno, per cui la macchina è 1230 di cilindrata, adesso ci vado il giorno 23-24, che mi scade l'assicurazione dell'altra macchina, e appunto, però puoi chiedere anche preventivo, se non ci vuoi andare, ti do il numero di telefono e tu chiedi preventivo anche tramite telefono, come ho fatto io prima per la foto, per cui vedi, vabbè, se ti interessa ti do il numero di telefono, vai di qua, al prossimo passaggio che ormai manco. Va bene, va bene. Sì, daglielo pure il numero di telefono, non c'è problema, io già, già sono qua. Non problem, Giulio. Ok. No, gli è dispiaciuto. Per la prima, adesso si possono rifare a Torino, però quello che è successo sono errori madornali e sono quello che noi abbiamo già parlato e continueremo a parlarne, vita naturale durante. La Juve quest'anno non ha difesa, quindi... questi giochi che hanno fatto a copertura di fasce e centrocampo, che poi ancora non vedo niente, io centrocampo assolutamente, hanno dimenticato che è andato via Bonucci senza Chiellini, e quindi la difesa della nazionale, Bonucci, Chiellini e Barzagli, la Juve ha solo da prendere un sacco, ma un sacco di gol. Questo è il mio punto di vista da juventino e da sportivo, poi per tutte le altre poco mi interessa. Vai Marco. Eia. Adesso vado a mangiare, devo mettere nei piatti quella roba, dai. E a Giulio volevo dire che quell'antenna che vede nel video era, a parte che era il vecchio palo, era la vecchia antenna boomerang che c'era dal 92 e l'ho levata nel 2013. E quel video è di poco prima di levare l'antenna, poco prima. Come vedi, quella zona di montagna lontano che si vede, quella zona sta libera è Alghero. Poi si vede il grattacielo, poi quella zona tutta che mi copre è tutta pruniceta, tipo via Savoia, la zona di via Gorizia, la zona di via Pruniceta, capito? Naturalmente l'antenna è più in alto di dove ho fatto le riprese io, perché io l'ho fatta a livello di terrazzo, no? Se invece ti metti sul gabbiotto dove c'è l'antenna, allora l'orizzonte si, diciamo, aumenta un po' di più, dai. E vabbè, per darti un'idea della mia vista dal terrazzo era, dai. E di conseguenza quello che vede anche l'antenna, anche se, ripeto, l'antenna è più alta. E l'antenna ha un palo corto di 3 metri e mezzo e spunta solo di 2 metri dal gabbiotto. È abbastanza bassa, ma così non devo tirantare. Va bene, detto ciò, dai, vado a mangiare qualcosa in fretta, vi lascio. Ho visto, sì, state guardando, ho visto che la Juve ha perso con una squadra spagnola, cos'era, boh, insomma una susa gli hanno dato. Vai Claudio. Che cos'era? Una delle squadre più forti al mondo, il Barcellona. Quindi non è che poi a Barcellona, a Madrid non è facile. Però ha trovato in ottime condizioni un attaccante che si chiama Messi, che penso che sia uno, se non è il migliore giocatore al mondo, assieme a Ronaldo, e quindi è chiaro che ne ha pigliato tre. Però, ripeto, la Juve ha tenuto banco alla grande, ma poi gli errori in difesa si pagano. Tu non sei appassionato di calcio, ma Giulio lo sa di cosa sto parlando, quindi la realtà è quella, perché altre cose no, non ci sono. Vai Giulio. Ok. Buon pranzo allora Marco, siamo qua, dai. Vai a pranzare, noi siamo qua, aspettiamo. Sì, qua, ci sono mille problemi, non uno, ci sono mille problemi con la squadra. Intanto il primo problema per me è l'allenatore, perché doveva essere eliminato insieme a Bonucci, quindi è considerato che hanno creato casino in società, eccetera, perché sono convinto che c'è malumore anche tra i giocatori. Primo. Secondo, abbiamo due chiamati policlasse, che policlasse non sono, Higuaín e Dybala, sono dei bravi giocatori, degli ultimi giocatori, ma non sono dei policlasse, perché il policlasse si distingue anche in campo internazionale. Secondo, gli osservatori della Juve fanno pena, almeno che non abbiano degli ordini ben precisi da parte della società, cioè Juventus, per non spendere più di quel tanto, perché non è possibile che tu ti fai scappare via dei giocatori che gli altri arrivano un mese, due mesi, tre anni addirittura dopo di te, e ti portano via un giocatore che tu hai contattato tre anni fa. Per cosa? Per appena 5 milioni di differenza, non è possibile, dai, non è possibile. Poi parliamo anche che c'è un piccolo attenuante, cioè perché c'erano 5 giocatori che erano fortunati che non hanno potuto giocare, però consideri che sono già vecchi, tipo Chiellini, tipo l'altro vecchio, 36 anni, poi non parliamo di Buffon, altrettanto lui. Tutta gente che ormai non è più gente che può far parte di una squadra con le ambizioni della Juve, nella maniera più assoluta, sono tutte persone da eliminare, perché ci deve essere un rinnovo totale con giocatori di fama, gente che sa giocare veramente al calcio e che ha esperienza internazionale. Io la penso così. Io sono d'accordo con te, assolutamente. Non lo so. Qui c'è Douglas Costa, Baccarin, dai, roba d'errore ha fatto. Si è infortunato, stava giocando bene De Sciglio, stava giocando bene. È entrato Baccarin, dai. Sant'Antonio mia, due palle ha perso, lanci sbagliati, tutto, no, non ci siamo nel modo più assoluto, Giulio, no. Non mi piace da me la Juve così, non so, forse devo ancora aspettare, però come dici tu, non so se stava giocando Higuaín, perché io non l'ho manco visto giocare, non ha toccato una palla. Dybala completamente cambiato dalla partita col Verona, cioè completamente cambiata. Non c'era squadra, non c'era gioco, non c'era niente. Appunto, per quello ci sarà pure un motivo, se non c'è il gioco, e il gioco non c'era stato da tre anni a questa parte, perché la Juve tutto quello che ha vinto, l'ha vinto perché aveva i giocatori che erano forti per l'Italia, per il campionato italiano, non per le coppe internazionali, ma per il campionato italiano. Dunque io questo, un allenatore se non è capace di dare un gioco ad una squadra, a dei campioni come quelli che ha la Juve, è assurdo, quello è assurdo. Significa che Zamparini una volta disse, Dybala è un campione, Allegri no, e ha veramente ragione. Io sono d'accordissimo con lui, per non parlare pure di preparatori atletici. Ma è mai possibile che una squadra come la Juve debba giocare 40 minuti e poi si affluscia come ha fatto a Cagliari, come ha fatto ieri, come ha fatto con la Lazio? Ecco, ha perso tre finali, le ultime tre finali le ha perse tutte, perché anche questa con Barcellona, io la consiglio non una finale, anche perché loro si volevano rifare della batosta e dell'eliminazione della scorsa Coppa. Ecco qual è il discorso. Ci sarà pure un motivo, no? Perché gioca solo 40 minuti e il resto della partita fa pena? E quello è il problema, che anch'io non capisco come mai. Perché i primi 45 minuti ha domato bene, anche rischiato di passare in vantaggio. Cazzo, secondo tempo molti Calabri, non ho visto gioco, non ho visto lanci sbagliati, più che a Buffon che ha pigliato tre gol da fantasma. Alzo quel portiere che ha giocato tutta 90 minuti col Verona, quel semi turnover che ha fatto. Guarda, era meglio quella squadra che questa che ha giocato contro il Barcellona. Sì, il portiere, poi dicono portiere il numero uno dei numeri uno. Forse era prima il numero uno dei numeri uno, ma adesso non è nemmeno il numero 5 dei numeri uno, ne sono più che convinto. Io guarda, ho visto anche ieri notte tardi, poi ho visto la partita anche nella Roma con l'Atletico Madrid. Devo dire che se la Roma ieri non ha perso, lo deve proprio il portiere della Roma, quello arbitro, come si chiama, perché quella la sono registrata, e dunque dopo la Juve mi sono guardato quella. Ma ti posso assicurare che adesso che l'Atletico Madrid ha giocato molto meglio della Roma, eccetera, eccetera. Ma è proprio per quello che ti sto dicendo, se la Roma non ha perso ieri, premesso che c'era anche un rigore forse a favore della Roma che non gli è stato dato, però lasciamo stare anche il girone dell'arbitro, ma aveva un portiere che ha fatto tutto, e cosa verifica? E poi mi verrà a dire Buffon il numero uno dei numeri uno, ma lasciamo perdere, forse alcuni anni fa sì, ma da qualche anno questa parte no, non sa uscire, non sa giocare di piede, tutte le volte che gli passano il pallone indietro ti viene freddo perché lui lo pasticcia, ma non è possibile, dai, è uomo qua. Io già l'ho visto che si è impappinato e ha rischiato di prendere il gol, già l'ho visto. Mi sono incazzato un bel, sul primo gol di Messi mi sono incazzato un bel con la diagonale, il secondo era bellissimo, però non si possono prendere quei gol, non ha scatto, non ha più grinta, non ha più niente. Riesce a prendere quelle palle facili così centrali e basta, incroci le pali, ma di cui andare. Il secondo portiere è molto bravo, io l'ho visto col Verona, Giulio, ha fatto certe parate micidiali, veramente molto bravo. Poi non lo so, poi io rimango scettico nel fatto che anche con Chiellini, con Barzagli e con Benatia, per me la Juve quest'anno non vince niente, nulla. No, quest'anno è proprio terra a terra, proprio. Poi io mi chiedo questo. Come mai? Non dico, noi siamo appena a settembre. Caspita, siamo a settembre. E non ci vedete tu, siamo a settembre. Guarda che è iniziato il campionato già da 3-4 settimane. Ed è iniziato anche la Champions League, e che non lo... ancora tu non sei in condizione. Ma voi scherzate? Come mai allora il Barcellona è in condizione? Come mai il Napoli è in condizione? Come mai tante altre squadre sono come il Paris Saint-Germain, sono in condizione? E la Juve ancora a settembre non è in condizione. Ma davvero sei un uomo furente? Guardate che voi mi fate fare le ferie fino a metà a luglio, quando vi entrare da giugno, cioè agosto, a metà agosto, quando vi entrare da luglio, da giugno se è possibile, perché ci sono degli impegni da rispettare, che sono tutti impegni di grande ambizione. Non stiamo parlando del bagno o di una squadra di seconda categoria, di seconda B. Stiamo parlando della Juve, una squadra che ha grandissima ambizione nel mondo, e invece siamo a queste condizioni. Ancora in settembre stiamo cercando un'intesa degli schemi di gioco, non abbiamo condizione che facciamo 40 minuti e poi al secondo tempo sono morti. No, non è possibile, non è accettabile. Qui anche la società dovrebbe intervenire, perché non è possibile, guarda qua, non è possibile. Anche la società a questo punto si sta comportando male. Ma sai cos'è il problema? Hai visto Lazio-Milan? Sì, cioè Milan ha creato uno squadrone, ha speso una barca di quattrini, ha comprato Bonucci, uno dei migliori difensori al mondo. E cosa ha fatto? Nuda, cosa ha fatto? Ha pegliato quattro gol però. Sì, ma anche con Bonucci, non è questione di Bonucci, è questione che è proprio manca uno schema di gioco, manca, ancora non sa come deve giocare, se deve adottare il 4-3-3, se deve adottare il 4-2-3-1, se deve adottare il 4-2-1-3, 1-2, non lo sa ancora lui, ma quando mai un allenatore che viene addirittura considerato uno fra i più bravi del mondo, ancora non riesce a dargli un gioco in una squadra che ce l'ha in mano da 3 anni e mezzo, o 4 anni subito, ma non è possibile, dai. E non serve l'allenatore, non è allenatore da Juve, non è allenatore da Juve per poter giocare in campo internazionale. In Italia può anche andare bene, però c'è sempre il discorso, che io la penso sempre a questo amore mio, che lui che la Juve ha vinto, essendoci lui come allenatore, perché ha avuto sempre i grandi campioni, ha avuto da almeno 6 anni a questa parte. Per cui abbiamoci anche piano nel dargli qualche merito anche di questi 3 scudetti che ha vinto in seguito, queste 3 Coppa Italia e poi le 2 finali A. Ma io sono d'accordo, perché ho visto un Inter che era un disastro per diversi anni, è arrivato un allenatore con le contropalle, perdonami di dirlo, perché Spalletti è un allenatore vero, e l'Inter ha già uno spogliatoio a livello proprio alla grande, ha un gioco molto bello e quindi per me è proprio questione di allenatore. Sì, ne sono più che convinto. Io infatti speravo, quando c'è stato il malumore con Bonucci eccetera, che la Juve licenziasse anche Allegri e prendesse proprio Fran Allegri, visto considerato che stava andando via la Roma. E invece te l'ha preso l'Inter, e per me l'Inter ha fatto l'affare, perché il miglior acquisto dell'Inter è proprio Fran Allegri, per conto mio. Tant'è vero, vediamo che gli ha dato un gioco, gli ha dato tutte queste cose qua. Fran Allegri è un bravo allenatore. E il giocatore, ma poi io mi dico questo, tu stai facendo una partita, tornando alla partita ieri, subisci il gol al 45esimo del primo tempo, ora va bene, ci può stare, hai stai giocando con Barcellona, c'è Messi da quella parte, ci sono Rakitic, ci sono Moschere, ci sono un sacco di giocatori, c'è Iniesta, sono grandi campioni, ci può anche stare, perfetto, io non dico che non doveva perdere, però io dico questo, ma almeno se non altro, grazie, renditi difficile la vita a questa gente. Non sei capace tu allenatore di cercare di entrare nella mentalmente nella loro testa e farli giocare con impegno e con grande attenzione, invece no, non c'è modo, diciamo, in poche parole, non ha lo stile che ha provato una volta l'altro allenatore che adesso è che anche lui ha preso la patosta da Lotteria, sì, che è vero, è una cuicola, in casa col Paese Germano, non so se l'hai saputo. Ehi, l'ho visto, ho sentito, ieri stavo guardando Mediaset prima, ho toccato qualcosa giù, ma la lei è sempre uguale. Però per me è importante che guardo segnale non mi interessa, ho detto la radio è sempre uguale, va bene, perché mi sembra che ho toccato qualcosa qua sui 4.30. Oh, la radio è perfetta, non c'è niente, è perfetta. Segnale. segnale è sempre quello, per cui va benissimo. Ah, ok, va bene. Sì, sì, ho visto Paris Saint Germain, ho visto un po' tutti adesso. Ti ripeto, il problema base è sapere di che morte dobbiamo morire in Champions quest'anno, perché secondo me siamo fuori, ma fuori dello tutto me. Intanto al momento siamo ultimi in classifica nel girone, perché anche quello, come si chiama, l'altra squadra che c'è, almeno quello ha fatto punti, mette la Juve, e deve vincere, cioè, deve vincere tutti adesso, tutte le squadre che incontra in questo girone, che vuole passare, perché fortunatamente è fatta la prima e la seconda, però per passare la seconda bisogna che vinca, perché se no ho la sensazione che se continua così, ui, per carità, no, e se va avanti, ui, ai quarti di finale non penso che ci arrivi qua, ammesso che possa avere un attimo di miglioramento la Juve, io penso che non arrivo ai quarti di finale quest'anno, assolutamente, premesso anche che non sono sicuro se riesce a passare il turno in questo girone. Scelto un attimo di bianco se vuole entrare qualcuno. No, perché intanto non lo so se riesce a vincere a Torino a quei livelli, a meno che veramente questa settimana non si mettano in testa di ragionare con la testa, perché devono ragionare anche con la testa, non solo con i piedi, però anche con la testa, e verificare tutti gli errori che sono stati fatti a Madrid, a Barcellona, perché è impossibile, guarda, è impossibile. I gol che abbiamo preso sono solo su errori della difesa. Rubimo, Benatiano, manco abitato si neanche per ammessi ad Arezzo. Manca per il secondo, come ti chiama, quello che ha sostituito De Sciglio, anzi De Sciglio stesso, gli è scappato di mano Messi. O il secondo che ha fatto cosa, Rakitic, quello lì, che è arrivato da dietro. E il terzo che ha fatto Messi la stessa cosa. Comunque, non voglio commentare perché forse è troppo presto, ma io la Juve di quest'anno non la vedo. Vedo una grandissima Inter, con un bel gioco, un grandissimo Napoli, una Roma ancora un po' spenta, il Milan è una bellissima squadra, senza dubbio, ha rinforzato tantissimo, però anche lì ci sono stati degli errori madornali, e quindi la Lazio la chiede a voi. Però ti ripeto, vedo una grande Inter, vedo un grandissimo campionato quest'anno dell'Inter, sicuramente. Sì, io penso che sì, l'Inter quest'anno, qualche soddisfazione sarà tua, sicuramente. Ma non è possibile, la Juve è completamente fuori dalle grazie di Dio, sia nel reparto centrale, cioè centrocampo, eccetera, che nel pacchetto arretrato. Non è possibile. Siamo senza difensori, siamo senza centrocampo. Non è possibile che una Juve possa, dopo aver aspettato 4 anni quasi, non sia riuscita a prendere un centrocampista come si deve, un meglio due, qualche difensore per ripiazzare i vecchi, tipo Barzagli, tipo la Barzagli lo stesso, anche se è ancora bravo, ma è lento ormai è lento, è un po' come è successo a Pirlo, che era grandissimo giocatore ma era diventato lento, per Juve perlomeno, e andava bene in America, anche Barzagli può andare bene in America, ma in America però, ma non qua, no, siamo senza difesa e senza centro capisci come si deve. E non riusciamo a mettere in condizioni di andare a rete senza che rientri a prendersi il pallone le Higuain, ma quando mai un centravanti puro come Higuain non riesce a ricevere il pallone per poter buttare lì, deve ritornare indietro, andare mano forte al centrocampo, perché il centrocampo è carente, non è possibile, dai. Higuain è un altro che sta giocando, sale, scende, se la palla non gliela dai non la può mettere dentro, non c'entra affatto, è così, comunque. Speriamo bene, vediamo un po' più avanti cosa succede. No, a vedete di Bertas, qua mi Bertas ci sono in Piazza Aldo Moro stasera. Bertas ci sono, allora devi cercare tua. Sì, nella piazza quella grande che c'è praticamente ad angolo con via Forlì. Folanini, dai, quella grande, via Folanini, via Carbonatti, è quella che scende dove c'è l'Enel, lì, quella è Piazza Aldo Moro. Già pieno di enti, Bertas sono bravi, ma quasi tutte le sere c'è un complessino. Oggi ho visto Rivertas. Sì, i Bertas sono bravi, certo, solo che anche loro hanno cambiato genere, hanno cambiato. No, è un genere che a me sinceramente non piace. Loro come gruppo sono bravissimi, sappiamo benissimo che è un gruppo straordinario, ma sempre facendo le canzoni che facevano prima e sempre di quel genere, non solo le canzoni antiche, ma sempre di quel genere. Invece oggi hanno tutto un altro sistema di fare musica, con gli auguri. Anche, come dire, ma ci deve essere un'evoluzione anche nel campo musicale, sì, certo, però a me quell'evoluzione della libertà in questo ultimo periodo non mi piace assolutamente, no, non mi piace avere il tipo di musica, ecco, io preferisco la musica che facevano prima, non qua. Oh, io e Berta ci preferisco i Nomadi, eh? Sono di un altro pianeta, lo so. Però anche i Berta, se suonano la musica di prima, sono bravissimi, sono molto molto bravi. Come sono bravi anche in partenza, al fuori del cantante che non è certo alla testa di Andrea, però tutto Andrea non lo possiamo scrivere. Pensa che al detto di Rom, che Rom è uno che pratica molto in Sardegna, eccetera, ed era anche amico anche di Andrea Palugli, eccetera, ha detto un giorno, ho sentito io la televisione, che Andrea Palloni era una delle migliori voci del mondo. Questo io non credo, però diciamo che era abbastanza bravo, a me piaceva la verità. Sì, Andrea non si tocca, non si discute, Andrea, la voce di Andrea era secondo me la più canorica, se vogliamo dire la sua. Quando lui cantava ti stava automaticamente parlando. Bravissimo Andrea, bravissimo veramente. Ho avuto modo di conoscerlo anche come persona. Non ce n'è per nessuno. È toccante ancora oggi parlare di Andrea Palloni, perché penso che cantanti sardi come Andrea ce ne sono stati pochi in Sardegna. Sì, no, indubbiamente per me è addirittura il più bravo, è stato il più bravo, almeno sia questo voi. Ce ne sarebbe anche un altro, che sarebbe bravissimo, io lo considero molto bravo, però cantando musica leggera, canta alla Claudio Villa, però adesso non sta facendo musica leggera, sta facendo il tenore, si chiama De Muro, Francesco De Muro o De Muro, una cosa del genere. Anche lui penso che sia lì, credo che sia anche lui in Porto Torres, se non sbaglio, ma è un bravissimo cantante. Io prima lo seguivo molto quando lui cantava nelle televisioni sarde, ha fatto un grandissimo successo, è un tenore. Siete alla Claudio Villa praticamente, della musica di allora, dai. La cantava già molto molto bene. E adesso sta facendo un grande successo anche come musica da tenore, cioè opere, eccetera, eccetera. Sì, non è così. Ho sentito, qualcuno nel canale adiacente, passando qua vicino, non lo so, chi è che vuole entrare sui canali 10? Una volta in Tana, pari a mezzo continentale, non lo so, qualche camper, qualcosa, è passata qua, vicino a casa. Va bene, ma guarda io, non ci sono parole per descrivere quello che era Andrea. Andrea, era come si deve, era veramente un grande cantante. Purtroppo, la sua sfortuna, oltre al fatto che è vissuto poco, che è molto giovane, era la sua sfortuna di tutto il gruppo, e che era un gruppo sano, perché c'è un altro gruppo di fuori, avrebbe fatto ancora più successo di quanto ne gli ha fatto il fratello, lui ha fatto, si è conosciuto in tutto il mondo, non solamente l'Italia, in tutto il mondo si è conosciuto. Purtroppo è andata così, pazienza, come si va a fare. La vita è porta anche le queste conseguenze, queste cose molto, ma molto più. Troppo giovane, veramente, troppo giovane. Non sono meritato, ecco, morire così giovane. Peccato. Avanti break, buonasera. Buonasera e buonasera. Ciao Massimi, buonasera, vai giù. Oh, ciao Massimiliano, ben entrato. Avanti Massimiliano, ti ho parlato un po' di cantanti sardi, che purtroppo non c'è più, ma te a lui. Ah, ci hanno rimasto, vuol dire la tua sorta. Campa del Rosmetro, bella, già spinge, il microfono è diverso, ma comunque già, la timbrica è quella, la spinta è quella. Ehi, neanche Giulio, infatti ho chiesto perché da tanto non lo usavo, non capivo se le regolazioni erano giuste, ma anche Giulio mi ha detto che già va bene. Il segnale da te com'è Massimiliano, sempre uguale? Sì, come va a capitare, va. E vabbè, sto usando la metà della potenza che eroga questa radio, quindi già va bene. No, sono in Berta stasera qua in Piazza Aldo Moro, Massimiliano, capito? Niente, stanno già facendo le prove. Vabbè, ci vediamo che regga la giornata, un po' nuvoloso, ma comunque non ci dovrebbero essere problemi, dai. Avanti Giulio, riprendi. Ok, qua. Comunque, anch'io non ho chiesto niente, no. Non ho mai detto niente, vuol dire che sto facendo bene questo baracchinetto vecchio, che non mi funzionava in AM/FM. Se scusi, l'altro giorno mi avevo detto che stavo riparando. L'ho messo a posto, l'ho tutto, diciamo, messo a posto. Anche lo smitter l'ho cambiato, perché quello che c'era ogni tanto si incantava, quando saliva poi magari era scelto e incantava. E allora vabbè, tu appunto non ti ho chiesto niente, allora se non mi hai detto niente vuol dire che andiamo bene. Un vecchissimo baracchino, un superstar molto vecchio, almeno di 20 anni fa, se non anche di più. E ragazzi, era fuori uso, l'ho messo a mano, così. Passato insomma, con la no, la sua voce. Ho visto dove era il problema. Avanti, grazie media. Perché tu, superstar, sta uscendo molto bene quella alla radio. Io ci sento a meraviglia, Massimiliano. Il russo veramente, come sempre, insomma, del resto. Io raramente ti ho sentito uscire male. Io di solito ti ho sempre sentito molto bene. Mi prendi e fai girare il super Claudio, vai. Ma no, ma anche poco fa c'è stato qualcosa che ho... Qualcuno forse è passato vicino a me, adesso sta avvicinando a te. Proprio era allo stesso segnale di Giulio. Capito? Va bene. E i baracchini, se sono tenuti bene, funzionano bene. Io l'altro giorno, ma signora, già te l'ho fatto sentire, stavo usando il 48, quello vecchio, praticamente vecchio stampo, uno dei primi, non so se primo, secondo, sono quello che si illumina i tasti, quello lì, con l'MB più 5, ma ti dico che risponde molto molto bene. E basta, insomma, noi portiamo sempre con i radiomani, così, basta anche un baracchino per fare due chiacchiere, ce n'è e ne avanza. Hai messo Massimiliano che sto uscendo sempre con un impolo autocostruito, e messo per il verticale, e il tubo ce l'ho interrato, il tubo alto si è da 1,20 m, massimo 1,30 m, praticamente parte dal pavimento e poi è chiuso tra le quattro mura del terrazzo, ed ecco che sono riuscito a parlare anche col continente, anche con l'estero, con il Portogallo, con la Spagna, quando c'era la preparazione, con gli unici preparatori. Per cui, perché avevo tirato giù la prossima tubola, l'avevo tirata giù, e l'ho sdraiata nel poggiolo, così, in tutto lo stile centrale, lungo come 7 metri più o meno, e l'ho sdraiato nel poggiolo, tanto poggiolo è 1,50 m per l'altro, per cui già ci sta. Non ho voluto svoltare anche per non rischiare di maglie, base, eccetera, che poi tra l'altro l'avevo sistemata perché non era più forse sistemata, insomma, è il solito distinguo della matroba che ho sempre avuto io in questi ultimi 2 anni più o meno. E allora ho fatto questo diploma e vedo che sta andando con Massimiliano Grande. Basta, non mi interessa arrivare 9.30, 9.20, 9.30, non interessa perché mi sei stato bene, Massimiliano. No, perché non lo... intanto la dovrei rimettere dove era prima, perché quella che è terrata non ci sta, perché quella è grande. Permesso che quando c'era la matobatuba era almeno 5-6 metri più in alto di questo di toro, per cui si può immaginare, perché è tutta la nostra parte della casa. Ti spiego, ma questo di toro è tallato dalla parte bassa della casa, mentre invece la tenda era piantata dalla parte alta, la parte alta della casa, per cui è tutta una carrera, ci sarebbe. Se io trasferisco questo di toro da quella parte là, sicuramente farò ancora meglio, però avete considerato che ci sono poche persone che non era il caso di fare anche la voi, sono sbagliata lì per non smontarla, perché magari mi mettevo a smontare forse che si spezzava anche perché avevo pensato se la metto a posto definitivamente la rimonto, però diciamo che adesso almeno per il momento non ho nessuna intenzione di rimontarla, capito? Con materia tutto per quel motivo lì. K avrebbe la Mantova e Mantova di polo. Vediamo un po' se c'è Marco Natalino, ci siete? Buonasera, avevo la bocca impegnata, non fate battute. L'importante è che hai la bocca impegnata e tu stai sempre mangiando per quello. Sì, ce l'ho ancora nel gargaroccio quello che stavo mangiando adesso. Buonasera a tutti, ciao Massimiliano, ciao Giulio, eccetera eccetera. Anch'io sto usando un 3009, però omologato, questo è proprio schifosamente omologato, cioè il trimmer a metà della M. E l'altro no, l'altro è col trimmer aperto, ma per il resto è tutto originale, non mi piace nemmeno esasperarli, dai. Se no c'era, ho visto una modifica di picchi della modulazione, cambiando le componenti o levandoli. Solo che poi rischio di, che ne so, di fare TV, di entrare nei citofoni, no? Non mi fido. Ciao, bene, ciao, ecco, lascia lui. Ehi, ormai che, diciamo, normale, non è l'originale, ma è ormai che normale, dai. La voce nasale è per colpa mia, per colpa del setto nasale deviato e anche qualcos'altro deviato, mi sa. Guarda che i chirurghi plastici fanno così, mi mettono una specie di scalpello all'interno, poi uno martelletto, danno un colpo, trac, e così per ogni narice. Poi mettono le stecche nel naso, una cosa atroce deve essere. Vabbè, finché te lo fanno sei addormentato, però quando ti svegli poi il dolore già lo senti. Ma almeno torna bello dritto il naso. Riprendi Giulio. Ok, va. Sì, vabbè, va. Se proprio ti interessa qualcuno che te lo possa raggiungere, guarda, io conosco un cugine di Portatore. Tore, come si chiama il cognome? È stato un campione italiano anche, sa. E credo che sia ancora lui il campione italiano. Non so se deve usare il sinistro o il destro, se lo raggiungere sicuro, ma il naso. Cosa dici tu? Insomma. Qua me l'hanno detto che c'è il setto nasale deviato e mi dovrei operare, solo che qua sono dei cani, ti aggiustano il naso e ti rovinano qualcos'altro. Sì, è dito sì, sono dito sì. Sì, credo che sia ancora lui il campione italiano in carica. Ho preso Massimo o Marco, per cui lei un po' tu. Ormai ti dovrà mettere il casco perché per evitare conseguenze più gravi del naso. Vabbè, ma quella è una cosa proprio da fare bene sotto i ferri. Vabbè, le cannule dovrebbero essere fastidiose, ma una volta finito il lavoro almeno riesco a respirare bene con tutte e due le narici. Vai Claudio. No, non penso, non c'è mia figlia, se non te l'avrei detto, perché è molto amico di mia figlia e mio genero, capito? Escono molto assieme. Ma io sapevo proprio da mia figlia che aveva perso il titolo, ma comunque ne fa niente, la Giulia, lascia aperta. Sta facendo il buttafuori. Sì, sì, lo so, sì, beh certo. Sta facendo il buttafuori. Lo sta facendo anche. Cioè, se aveva comprato una casa, un appartamento, se aveva comprato. Portatore sta facendo anche la fissa camera, detto in maniera simile, non in maniera così. Ma chi? La fissa camera. E non facciamo nomi. Ai turisti, no, uno che di passaggio magari ha bisogno di una stanza per dormire la notte e lui nella fitta e gli sto proprietà questa casa, no? Ma tu lo sai come sarà completa quella casa? Ha vinto a superare la lotta? Allora, questo non lo so, aspettate, se l'ha comprata, è investito evidentemente i soldi che aveva, o perlomeno parte dei soldi che aveva, per vestiti e ha lavorato. Bene, anche quello è un modo di fare soldi, perché no, è un buono sistema questo, no? Allora, se Massimiliano. Sì, avevo una curiosità, volevo dire se si può passare con la fila con la radio. Sì, possiamo passare, così ne approfitto anch'io per controllare se il lavoro che ho fatto in questo baracchino funziona bene anche per le vetrine. Perché no, sì, si può fare. Mi ha detto Marco che non sto uscendo in FM. Dipende dal baracchino che usi in ascolto, dipende molto dal baracchino che usi in ascolto. Quindi il tuo baracchino non serve in FM? Questo è stretto, Claudio, questo è omologato, lasciato com'era. Massimiliano era il migliore. Massimiliano era il migliore in assoluto in FM, e anche il più forte. Più forte di me? Vai, fate un brutto, vai. Di radio sì, ma volete che ve lo registri? No, oggi ho preso, no. No, pensavo di segnare. Non so, io questa radio così è. Questa radio così è, va bene, dai. Tanto che adesso chiudo, che sono le 7:30, vado a portare il cane, se no poi si fa buio ed è un casino, che adesso le giornate sono un po' più corte, dai. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Massimi, se ci sei, magari quando rientri dopo, sono qua sul 10, io a mezz'oretta sono davanti in radio. Ciao Giulio, ciao Marco, Massimiliano e chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10. Riprendi Massimiliano. No, cara, lo sai, io anche io ne ho visto che vado a prendere un telefono che ci spasso, tutti quanti sono già da me, vorrei rilassare, spero di essere qua a parlare. E allora dimmi chi, ciao Claudio, ciao Giulio e ciao, riprendi. Vabbè, ripeto, ogni apparecchio riceve in modo diverso. Giulio ha migliorato, va bene, dai, buona uscita Massimiliano e Claudio anche. Porta quel povero cane che lo fai andare solo 2 volte al giorno, ci avrà una vescica d'acciaio. No, io è uscito stamattina, dopo pranzo, adesso lo porto io. No, esce quando, 2 volte solo quando la giornata è brutta, che sta piovendo, eccetera. Se no già esce. Mi stanno venendo a prenderti, o Marco. Va bene, dai, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ciao. Ok, ciao qua. Ciao Massimiliano, allora grazie per la chiacchieratina ad entrambi, dai, ci sentiamo eventualmente alle prossime, quando coincide. Bene, bene, bene. Avanti Marco. Eia. Ok. L'FM è un po' sempre un po' ostica, bisognerebbe mettere tutti gli apparecchi a puntino, aprire un po' l'FM, però va fatto in laboratorio, perché a girare così, vabbè, comunque l'importante è non mettere la deviazione FM al massimo, perché sennò comincia a strappare anche in trasmissione. Questo l'ho voluto lasciare così giusto perché è omologato, capito? Comunque ripeto, il Superstar è una bella bestia, non che esca fortissimo, perché non vorrei nemmeno che uscisse fortissimo, perché sennò poi fai sorda la gente, boh, ma che esca limpido, solamente più la M è aperto e meglio va, più limpido è, più forte è. Beh certo, è tutto avanti il corpo, è tutto diverso. Sì, in effetti è così, ma diciamo che io questo appunto, come stavo dicendo l'avvocato, l'ho messo mano, ce l'ho una ventina d'anni, per cui l'ho rimesso in ordine, diciamo, dai, perché era sempre da una parte, messo da parte, così non funzionava la L, l'FM, adesso l'ho ripristinato, però evidentemente l'FM l'ho regolato ancora meglio. Io l'ho regolato così, sentendomi con le cuffie, niente di più, ho regolato baracchino, ma non sei benissimo, se io aumentavo il volume dell'altro mi fischiava e allora avevo difficoltà ad poter regolare. Ci vorrebbe uno corrispondente, come ad esempio ci sei tu adesso, e fare delle regolazioni allora, al posto, ma niente di più. Oppure devi avere le apparecchiature giuste, non c'è da fare. A mano è sempre fatto a mano. Sì, basta aumentare di poco, che adesso sia a metà, metterlo poco più della metà. Non dico a tre quarti, ma un po' più della metà, insomma, quando è giusto, passabile, va bene. Io notavo, ho alzato il volume, ho provato anche a abbassare la RF gain, la tua modulazione è appena ha una puntina proprio di saturazione, non è proprio limpida, l'ho notato anche prima, anche attenuando rimane. Invece l'FM è la più limpida, vedi? L'FM rispetto all'AM non ha fenomeni di saturazione. Da quel punto di vista è superiore un po', dai. Ok, non è importante che esca di radio, dai. Sì, ti dico subito il motivo per cui non sarà forse troppo limpida, anche prima era ancora peggiorata, perché l'avevo tirato ed era arrivato a 12 watt circa, 11 e mezzo abbondante, insomma, dai. Però sentivo un attimo di saturazione, allora l'ho abbassato a 10 con un rosmetto, cioè con un wattimetro mi dà 8 watt e con un altro me ne dà 10, permesso che io ne ho 3 di rosmetri e wattimetro, per cui non lo so qual è il più giusto, ma evidentemente sarà meglio abbassare ancora un po', perché 10 watt magari che so io, magari devo lasciarlo a 8, tanto per essere più puliti che radio, ma come facevo? Mi stavo ascoltando io in cuffia, ho fatto la regolazione come ho pensato di che potesse andare bene, però poi è tutto da verificare, ma mi stai dicendo che ha un attimo di strappo e allora evidentemente allora almeno 1-2 volte bisognerebbe ancora passare, no, però se ho voglia di aprirlo di nuovo lo faccio. Ehi, ascolta, mi devi dire se quello ha due finali o un finale, e che finale è? È il 2366 o 2366, lo colleghi, è l'altro 1669 o una cosa del genere. Sono i classici finali che hanno tutte le apparecchiature tipo che so io, oppure il Galaxy, oppure tanti altri, hanno tutti gli stessi filati, gli stessi componenti, per cui lo conosco bene, come circuito lo conosco molto bene questo, appunto per quello che stavo dicendo, se c'è un attimo di saturazione evidentemente vuole abbassare ancora, forse l'ho tirato troppo, lo devi abbassare ancora, non so, devi avere lo strumento che ti dia una misura giusta, no? Io sto dicendo io ne ho tre e mi sto sbagliando tutti e tre sulla differenza di watt in uscita, per cui il codice di campo l'ho lasciato com'era perché penso di avere uno che è superiore agli altri due, l'ho lasciato a quello e dunque che mi segnava 10 watt. Ehi, ma per caso un Superstar 3006? Sì, è vero. Sì, la avevi già provato, ti ricordi, c'ero anch'io la volta. È la stessa, guarda, con Pomponi avevamo fatto le prove, no? A Pomponi ho regolato un Connex 4000 Eco, no? Che aveva 4 watt, no? La motorazione era splendida, no? Lui cosa ha fatto? Appena subito l'ha aperto, ha messo tipo 10-12 watt, l'ha tirato proprio, finale un 19,69, no? 2SC 19,69, mono finale. E lui subito gli ha dato 12-13 watt, non mi ricordo. E come è entrato l'ho sentito saturo, ho detto, ma Antonè, cos'hai toccato? E ho alzato i watt, ho detto, guarda che satura molto, l'aveva tirato molto anche di, forse anche 14 watt l'aveva tirato. Ho detto abbassa, più abbassava più era buona la radio. Alla fine ho detto metti 4-5 watt, perché con 4-5 watt, ma anche 7 watt li puoi dare, la radio è più bella. Infatti quando l'aveva messo basso 5 watt la radio era splendida. E poi gli ho detto, Antonè, inutile che tu metti 12 watt, io per esempio anche l'altro 3009 non omologato ha solo i canali in più, però gli ho lasciato 5 watt e 5 MFM e 12 SSB. Perché questo? Perché se mi serve per pilotare un lineare, l'ingresso basso serve a non saturare almeno. Se gli do 10-12 watt un apparecchio e non sono regolabili, quello era fisso come potenza, e poi mi attacco un lineare, è chiaro che fa un pasticcio, fa un pasticcio. E quindi l'ho tenuto tutti bassi, anche quello col frequenzimetro, no? Anche se ha più canali, ho lasciato 4 watt MFM e 12 SSB. E per me è la cosa migliore, perché tanto vi o esco normale o metto lineare, inutile passare da 5 a 8, da 5 a 10, guadagna un'inezia. Se proprio uno vuole aumentare già c'è linearetto, è tutto lì, dai. Comunque sì, Pomponi aveva tirato parecchio, e infatti più aumentava più saturava, più abbassava più era bella la radio. Guarda, io consiglierei non più di 7 watt se non devi pilotare lineari. Se devi pilotare lineari io consiglio 4, massimo 5, massimo. Okay, no, non ho nemmeno io lineari non ne ho, per cui non... No, ma... poi abbiamo un altro che è vecchissimo, l'avevo preso da poco, di seconda mano, per il 160, sempre super tanto. Questo che sto usando adesso è 3.600, l'altro che avevo comprato da uno, da una persona che non doveva tenere il pane e il nome, che gliel'avevano regalato e lui se l'ha venduto. Quando mai uno si ne regala una cosa e lui poi se lo vende, lo fa in su, comunque, non prende su, io glielo farò, però non me ne frega niente. E anche quello già funziona, se no, anche quello funziona esattamente. Sì, io appunto ti stavo dicendo, questo 3.600 l'ho tirato e è arrivato quasi a 12 watt. Però poi mi sono reso conto, ascoltandolo in cuffia sempre, a basso volume, eccetera, se lo fischiava, perché essendo vicino fischia. E sentivo qualcosa che non era il mio gradimento nella modulazione, la sentivo un pochino sacro, allora l'ho abbassato. E mi è sembrato che andasse bene, quindi però, ripeto, è sempre da verificare. Ma tu mi stai dicendo che c'è ancora una puntina, evidentemente almeno un altro paio di watt, non dovrei tirare giù, non dovrei abbassare ancora. Lo farò, lo farò, però adesso intanto non c'è più nessuno per questa. Ma questo è un altro discorso. Eia. Questo ha un finale singolo, a parte il pilota, vabbè, il finale pilota c'è sempre, ha un singolo finale, mi pare che sia IRF 510 o 520, insomma sono quelli MOSFET, che io ricordi è quello, il finale, e questi anche 8-10 watt non dovrebbero saturare. Anche se dicono 10, ma poi ne danno 8-9, non di più. E poi ricordati, tanto la roba tirata dura meno, il finale lavora di più e la vita si accorcia. Alla fine, a me meno che non sia proprio un baracchino che può regolare la potenza, allora puoi fare alto e basso come vuoi, quello sì. Quelli regolabili che ho io hanno due finali però, il CRT 7009, 9009, la TRCVL5 hanno due finali. Naturalmente la potenza si somma, cioè poi la puoi anche regolare, quindi se devi usare un lineare puoi ottimizzare comunque i watt. Ok, il Superstar 3006 è stato leggendario all'epoca, era leggendario. Ed è un bel apparato, e il 3009 non è altro che lo stesso, è nato dal 3006 con più canali, poi sempre più aggiornato negli anni, anzi nei decenni, e dico per fortuna, perché se no non ne troveremo più di 3009. Lo faceva anche la CRT prima, vari anni fa la faceva la CRT il 3009, sia con frequenzimetro che senza frequenzimetro, e poi l'ha presa questa azienda malese di cui non ricordo mai il nome, Ranger Communication Malaysia, che ha ripreso il progetto e l'ha prodotto. Diciamo che sta uscendo di catalogo, anzi è uscito di catalogo alla Proxel, e infatti non li trovi più, non li trovi più. C'era un negozio che ne aveva uno ancora in magazzino, però a quest'ora l'avrà venduto. E guarda, di questi ne avrei comprato anche un altro in più di 3009, lo sai, da tenere da parte, usarlo ogni tanto, giustamente a mantenerlo per usi futuri, sempre che in futuro la 27 è... sappiamo per quanti anni esisterà o per quanti decenni la 27. Quando vedranno volta a volta riassegneranno sicuramente la frequenza a chissà chi, ma speriamo più tardi possibile. Certo. Io a proposito, che stavo, ti volevo dire, guarda, ieri avevo cambiato, da venerdì mattina, ho cambiato il gestore del telefonino. Sono passato. No, perché la Wind, intanto in certi posti la Wind non mi funzionava, non prendeva. E poi mi ha fatto incassare per il semplice fatto che nel giro di due mesi mi ha aumentato 5 euro, da 10 euro sono diventato 15, ogni 28 giorni, praticamente ogni 4 settimane. Allora così sono andato a prendere la pensione, poi ho finito di flussi. E ho parlato con la impiegata lì e ho cambiato gestione. Adesso sono con portabuffi. Funzionava lo stesso. Però sino a stamattina non mi funzionava internet, che ho preso un pacchetto con lo 7 giga, 1000 telefonate, e pago 30 euro di colpo ogni 3 mesi, che significa 10 euro al mese. E allora sono andato stamattina lì all'ufficio delle poste, delle pescate, così e così, loro hanno telefonato alla centro assistenza 160, e dice domani glielo mettiamo a posto, perché bisogna resettare il telefonino della posta. Invece stamattina l'ho data mia figlia, che 448 me l'ha messa a posto lì. Senza bisogno adesso di... domani se mi chiamano da Roma, perché senti come dovevo spiegare come lo fare per metterla a posto, e invece me l'ha fatto mia figlia 448, senza bisogno di intervento di nessuno, perché quella delle poste non c'è riuscita stamattina, non lo so, capite? Ehi, sai, lì in 448 magari non riescono. Ehi, a me invece non sta funzionando Wind. Anche quello è vero, prende o non prende, ma già dove sei. Non sta funzionando la connessione internet, non so perché. Vabbè, ho la ADSL a casa, Posso accendere il wifi in qualsiasi momento. Però se esco fuori non sta andando, mi rompe molto le scatole e non ho capito qual è il problema, non so quale sia il problema, e passo da uno della Wind, vediamo se me lo mette a posto lui. Ecco, già si arrangiano loro. Spero che sia solo un problema di linea, non un difetto dello smartphone. Ho provato anche, siccome ha due SIM, no? A invertire le SIM, invertire le SIM nei due slot, no? E il problema era lo stesso, secondo me è un problema di linea. Ho sbagliato qualcosa io, perché ho visto che sono sotto di 15 centesimi, che secondo me è una teoria mia, no? Tu paghi 5 euro per un mese, no? Però, caso strano, mi è finito comunque il credito del telefono e, caso strano, non funziona nemmeno la linea. Cioè, non vorrei che, pur pagando la connessione internet, se non hai credito non ti faccia navigare. Questa potrebbe essere una lonfiata di Wind. Comunque lo verificherò domani, perché faccio una ricarica di 5 euro su Wind. Non deve scaricare nulla, non deve scalare nulla e non dovrebbe. Però se riprende Wind a funzionare, allora l'inghippo è quello. E purtroppo gli operatori telefonici, come si dice, il furto è l'anima del commercio, Giulio, è sempre così. Sì, sì, sì, per adesso che il numero è arrivato sempre quello, è Marco, io te l'avrei già dato. Il numero è rimasto sempre quello di prima. Però ripeto, Wind mi scocciava perché i certi posti non prendeva. E allo stesso tempo mi ha fatto incavolare proprio perché tu a me ne fai presso e tu al tuo piacimento mi aumenti. Prima da 10 euro me l'ha portata a 13 euro e 50. Poi da 13 e 50 nel giro di nemmeno due mesi a 15 euro. Ma per quale motivo? Non è per un euro in più o un euro in meno o 5 euro in più o 5 euro in meno. Però la questione è il principio, io non ti ho chiesto niente. Sì, c'è il caso che ho aumentato un giga, da 3 a 4. A me non me ne frega niente, non te l'ho chiesto. Se io te l'avessi chiesto, un discorso avessi ragione. Ma tu di tua iniziativa non lo puoi fare questo, secondo me. Allora ci ho pensato e l'ho cambiato. E appunto, come ti sto dicendo, adesso il sistema mio è così. Posso fare 1000 telefonate, o messaggi, o quello che voglio. Che tu non farò mai, cosa faccio, a chi devo telefonare, al mondo intero. E più, allo stesso tempo, ho 7 giga di potenza. Per cui va bene, ecco, va bene. Ho visto che funziona bene, adesso tranquillo, pacifico. Prima in casa funzionava anche, perché attendersi un DSL funzionava lo stesso, internet nel telefonino, ma quando mi allontanavo da casa non funzionava più, perché staccavo il collegamento. Ma adesso è a posto, va fatto di attivo, senza bisogno di non riaspettare a domani, perché domani l'appuntamento che mi avrebbero chiamato loro, a mezzogiorno e mezzo per spiegarmi come dovevo fare per rettificare tutti i dati, capito? E invece ho cercato bisogno, perché ha preso mia figlia e non sono dicendo, che me lo ci conduci, e non l'ha messo a posto lì, tutto a posto. Bene, bene, qua sento odore di legno bruciato, va bene che stanno accendendo il camino o il barbecue, ma speriamo che non stia bruciando niente qua, senza scherzi. Vabbè dai Giulio, adesso facciamo così, sono le 21.52, ma le 19.52, sì, qua. Adesso do un'occhiatina per vedere se il fuoco è da fuori, no? E poi tra pochi minuti c'è il telegiornale e me lo seguo, dai. Ok, ci siete alla prossima, domani quando capita, dai. Ok, ciao Giulio, buona serata, buona cena. Io penso ho pranzato poco fa, mamma mia. Stanotte a cenare se ne parla 11:30, massimo mezzanotte, ok? Dai, ci sentiamo alla prossima. Ciao Giulio, ciao, buona serata, buon tutto. Ok, ciao Marco, grazie per la chiacchieratina. Buona serata anche a te, dai, anch'io sta adesso scendo per la cena. Fatto più che sono gli usciti, i giovani di casa per andare a comprare la pizza, mi prendo un po' vicino. Oggi, qualcuno, se no buona cena a tutti. Marcolino Gondo, ci sei? Marcolino? Oh Marco, non so se Garcia Cucacci è andato. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, prova, prova, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, 10, canale 10, canale 10, che c'è, che c'è? Anzi, chi non c'è?